Epilog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Se vi trovaste in serio pericolo di vita, o si trovasse un vostro carissimo congiunto, un figlio, un coniuge, un familiare in gravissimo pericolo di vita, vi dicessero che la situazione può essere risolta con un trapianto d'organi e vi dicessero anche che c'è una lunghissima lista di attesa per ottenere l'organo che può salvare la vita alla vostra persona cara o a voi stessi, se poi facessero capire in maniera indiretta che si può accelerare questa sorta di lista d'attesa acquistando un organo nel vastissimo mercato d'organi che c'è nel mondo, cosa fareste voi? Voi direste: no, eticamente è una cosa che va contro tutti i miei principi, mi fa orrore, non posso pensare che un essere umano accetti di farsi espiantare un organo vitale semplicemente perché ha bisogno, io col mio denaro posso comprarmelo. Oppure, ancora peggio, non posso accettare di alimentare organizzazioni criminali che hanno il loro business nel traffico d'organi, che prendono persone e spiantano organi, magari queste persone usate come serbatoi di organi umani poi vengono buttate via come contenitori vuoti, come apparecchi esauriti perché hanno già dato ciò che serviva al mercato. Questa è la domanda che faccio all'inizio, poi vi dico che esiste tutta una pubblicistica che ci tranquillizza riguardo questa domanda. Noi, che finché non siamo colti da questa necessità, diciamo: sì, ma è una leggenda metropolitana. E cominciamo ad elencare tutta una serie di fantastici racconti leggendari che abbiamo letto sui giornali, che abbiamo sempre classificato come quelle sorte di parto, di mitologia urbana, per cui esiste l'uomo d'affari che va in un viaggio in un paese esotico e naturalmente la sera vuole togliersi lo sfizio di sesso selvaggio e sfrenato, trova la solita donna bellissima, piacente e disponibile, la porta in albergo, pensa di consumare un fanta atto erotico, ma in realtà si trova la mattina dopo nella vasca da bagno dell'albergo ricoperto di ghiaccio con un tubicino di drenaggio e una grossa cicatrice che gli fa capire che gli hanno preso un rene. Oppure esisteva una leggenda metropolitana di tanti anni fa che in certi negozi del centro cittadino di Roma, se uno entrava nella cabina dello spogliatoio poi scompariva improvvisamente e veniva già trovato già pronto, impacchettato per essere avviato al mercato degli organi. Beh, queste sono naturalmente leggende. Il fatto che esista una trattatistica leggendaria sul mercato clandestino degli organi, secondo voi esclude a priori il fatto che esista realmente un grosso business? Beh, io ricordo tempo fa, ma parecchi anni fa, una signora con il marito dializzato che mi raccontò che era andata in India con suo marito, aveva acquistato un rene, aveva conosciuto il donatore, aveva fatto lo stesso ragionamento che ho fatto io all'inizio di questa trasmissione. Mio marito muore, questa persona ha molto bisogno, io posso aiutare la sua famiglia, quindi faccio un atto di bene. È facile trovarsi una giustificazione, ma è anche facile inorridire di fronte a chi fa questo tipo di scelta, se non si è attraversati dal problema, se non ci si trova a vivere l'esperienza. È tornata con il suo marito, con il suo rene trapiantato, ha vissuto ancora un po' di tempo, poi anche il marito è deceduto, quindi è servita poco questa operazione. Beh, questa mattina cercheremo di parlare con cognizione di causa, con documentazione e con persone che hanno studiato e approfondito questo problema del mercato clandestino degli organi umani. Negli anni 70 in Polonia era diffusa una leggenda al centro della quale spiccava sempre un'auto misteriosa, solitamente una Volga nera, una specie di limousine usata per rapire i bambini. Due uomini, preti, forestieri, suore o dei semplici sconosciuti, tentano di condurre all'interno dell'auto un bambino per poi prelevargli sangue o organi diversi, per lo più reni, a favore di sceicchi arabi o ricchi possidenti occidentali, pronti a pagarli profumatamente. In America Latina si parla di un'organizzazione che ha reclutato alcuni chirurghi senza scrupoli per asportare organi da rivendere sul mercato clandestino dei trapianti. Simili voci vennero alla ribalta in Honduras e in Germania nel 1987, per estendersi poi a tutto il Sud America. Malgrado non si abbiano prove definitive dell'esistenza di una simile organizzazione che operi a livello internazionale, non è raro che notizie del genere vengano accreditate dalla stampa. 800 24 00 24. Cosa ne sapete voi del mercato clandestino degli organi finalizzato al trapianto? Quante volte avete sentito dire che è una leggenda che circola e che si alimenta nel sentito dire? C'è sempre il cugino o l'amico del cugino che racconta questa cosa. Quante volte invece avete conosciuto direttamente persone che hanno attinto al mercato di organi? O quante volte, semmai, vi siete nella situazione di dover scegliere anche voi se assoggettarvi a una lunga e difficile attesa o scegliere la via breve? E nel caso, chi vi ha proposto la via breve? 800 24 00 24. Franca Porciani, buongiorno. Buongiorno. Franca Porciani è una collega, una giornalista del Corriere della Sera, specializzata nel giornalismo scientifico, si è occupata per molti anni appunto di ricostruire attraverso le certezze, le notizie, le cronache, le informazioni, il mercato del traffico d'organi. Ha scritto un libro per l'editore Franco Angeli, Traffico d'organi, nuovi cannibali, vecchie miserie, con la prefazione di Ettore Mo, che è un illustre giornalista del Corriere della Sera e specializzato nei suoi reportage dall'estero. Franca Porciani, abbiamo iniziato con l'aspetto leggendario, che tutto sommato sembra la vicenda che più mette tranquilli tutti noi, non toccati direttamente dal problema. Ma io leggo nel tuo libro che in realtà ci sono delle cifre ufficiali, dicono che ogni anno 14.000 individui restano con un rene solo, o vittime di un'organizzazione che appunto fa di loro mercato, o per loro scelta di bisogno. E dunque vogliamo parlare un attimo di questo, perché poi possiamo parlare anche delle leggende dimostrate, non dimostrate, i dubbi. Però è vero che un mercato con addirittura le sue tariffe, perché un rene, parliamo del rene che diciamo è l'organo di cui maggiormente è diffuso un traffico mondiale, ha una tariffa diversa se io lo vado a prendere in India, se lo vado a prendere in Brasile, se lo vado a prendere negli Stati Uniti. Questo fatto rimaneva in un ambito un po' vago finché un'antropologa dell'Università di Berkeley, che poi è diventata molto nota fra chi si occupa di queste cose, Nancy Sherpe-Hughes, trovò attraverso il miliardario Soros, ma anche altri finanziamenti dell'Università di Berkeley privati, la possibilità di mettere insieme una squadra di medici e di studenti di medicina che si sono sguinzagliati alla fine degli anni 90 per tutto, direi, il mondo, perché sono andate nei posti più poveri, le favelas di Manila, sono andati ovviamente le favelas di Rio de Janeiro, sono andati in India, che è stato il primo luogo di traffico di organi, e hanno ricostruito una mappa di dove, anche di flussi, perché ovviamente, non so, l'americano, per l'americano è la situazione più comoda è andare in America Latina, per l'europeo andare verso i paesi dell'est, ma poi ci arriviamo. Solo una domanda per chiarire il quadro. In appendice nel tuo libro ci sono tutta una serie di documenti ufficiali, norme, legislazioni, pronunciamenti. In particolare si parla di donazione samaritana, che è un termine che fa inorridire nella sua ipocrisia, come se ci fosse un buon samaritano che decide. Però è un documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'aprile 2010 che tutto sommato ammette che possa esistere questa possibilità, però con tre diverse fattispecie: o un consanguineo, una persona legata da legami affettivi, un fidanzato, una moglie, un amante, o un perfetto estraneo. Ma nel caso del perfetto estraneo, come si può eticamente pensare che il perfetto estraneo faccia il buon samaritano nei confronti di uno sconosciuto? Allora io questo problema lo sollevo, no? Anche perché il documento nostro, che purtroppo dico, ricalca quello americano, perché già negli Stati Uniti è stato fatto quel passo lì, si difende dietro l'ipocrisia, ma fra le due persone, ricevente e donatore, non ci deve essere nessuna conoscenza, cioè devono rimanere degli assoluti sconosciuti. Cioè, perché un contadino del Bangladesh dovrebbe impietosirsi per me e regalarmi un rene? Questo mi domando. No, questa cosa della Nazione Samaritana in realtà sarebbe rivolta proprio ai cittadini italiani, ma si è visto dove è successo negli Stati Uniti di più che apparentemente questi non si contattano, non hanno nessun rapporto. Sotto banco c'è una trattativa economica. Quindi questa situazione rischia di diventare davvero un coperchio, no? Di ipocrisia all'avvio di una possibilità legittimata in qualche modo dallo Stato di fare una cosa simile che in Italia, che dove sotto poi compare il traffico degli organi, compare la trattativa. Fermiamoci solo un minuto, Franca, sì. Perché abbiamo subito un ascoltatore. Luca, buongiorno. Luca. Buongiorno, dottor Nicoletti, buongiorno. Io sono intervenuto per raccontare parte della mia storia. Io ho 26 anni e da ormai 24 sono legato a una terapia che si chiama dialisi, credo che sia ormai abbastanza conosciuta, quindi certo. non sto a spiegare che cosa sia. Nel 2006 le mie condizioni peggiorano molto, entro in coma e l'unica modalità per potermi salvare la vita è un trapianto, in quanto i miei accessi vascolari per poter accedere a questa terapia che si chiama dialisi erano esauriti, l'altra modalità di dialisi, la peritoneale, non era più possibile, non è stato più possibile farla. Lo spiego agli ascoltatori, in realtà la dialisi significa che penso che a giorni alternati, un giorno sì, un giorno assolutamente no. Assolutamente sì, un giorno sì, un giorno occorre no. Occorre fare un lavaggio totale del sangue perché perfetto, i reni non funzionano e bisogna perfetto. Mettere un ago in una vena e se lei la fa la 20 anni... due veramente, due, sì. Uno per entrare e uno per uscire, sì, comunque. E dopo 20 anni è chiaro che non c'è più spazio libero per mettere gli aghi, quindi si crea un problema. Punto di domanda, che cosa facciamo con Luca, ci si domanda. E nessun chirurgo in Italia ha deciso, voleva mettermi le mani addosso perché era più il rischio di potermi lasciare sotto i ferri che il possibile beneficio del di trapianto. Una funzionalità di un trapianto. E quindi cosa ha fatto? Quindi riunione di famiglia, riunione generale, si decide di cercare una via alternativa perché Luca, ovvero io, non può morire, meglio, cerchiamo di non lasciarlo morire e cerchiamo... Nessuno fa piacere, chiaro. No, immagino, ma dirlo è una cosa, trovarsi in una situazione, lei lo sa meglio di me... È la premessa che ho fatto, dico, è esatto. Facile dirlo quando uno non è attraversato il problema, sono contento. Perfetto. Quindi lei ha deciso di andare all'estero, cioè la sua famiglia ha deciso, portiamolo all'estero e facciamo questa cosa. Assolutamente sì. Dove è andato? Io sono andato a Istanbul, in Turchia, dove un'equipe di cui probabilmente di turco c'era ben poco, perché c'erano chirurghi francesi, c'erano chirurghi israeliani, c'erano medici americani, quindi un'equipe internazionale in un ospedale che, ribadisco, per l'idea che possiamo avere della Turchia, c'entra ben poco perché ma oggi sta facendo passi da gigante in tutti i campi. Assolutamente sì. Quindi andiamo al punto, sintetizziamo però, sì. Luca lì faccio un trapianto. Le hanno fatto, lei ha fatto domande sul donatore? Assolutamente sì. Io ho fatto domande sul donatore e non dico che ho stretto la mano alla persona che mi ha donato parte della vita, però l'ha visto. Ma quasi. E nonostante il rene che mi sia stato donato poi per mille altri motivi comunque mi ha riportato a dover fare la dialisi, mi ha dato la possibilità di stare lontano da questa terapia per 2 anni, avere la possibilità che i miei accessi vascolari si potessero ristabilire e quindi mi ha dato vita, un ponte per la vita. Una cosa, diciamo, questa possibilità viene offerta da, diciamo, il sistema medico ufficiale tradizionale, cioè nell'ospedale a un certo punto un dottore le dice: guarda, c'è una possibilità, con Italia non lo facciamo, ma fuori puoi farlo. La dritta allora, come arriva? Allora, le cose sono due. Te lo dicono, ma dicono ovviamente noi non ne sappiamo niente, cioè ti dicono c'è questa voce, per cui all'estero è possibile farlo, ma in Italia è legale o comunque non è del tutto legale, quindi fatti tuoi. A me è stato detto fatti tuoi. Di fronte a Luca è in questa condizione, mi è stato detto noi non possiamo fare Luca, niente. L'ultima cosa, quanto costa fare un'operazione del genere? Vuole sapere totalmente quanto mi è costato? Sì. 100.000 euro. Con 100.000 euro. Grazie Luca. Paolo, buongiorno. Buongiorno, mi sente bene? Certo. Perché sono in macchina. Io sono un medico. L'intervento che volevo fare era per un'esperienza che mi è capitata alcuni anni fa, 7-8 anni fa in Guatemala, quando sono in ferie vado ogni tanto a dare una mano dove può servire, insomma. E quindi ero in un paesino del Guatemala verso il confine con l'Honduras e mi capitò proprio in quei giorni di sentir parlare di una bambina rapita qualche tempo prima di 9-10 anni e che non era stata più ritrovata. Quando poi, dopo una settimana o due che ero lì, è stata ritrovata questa bambina e in circostanze direi molto particolari, è venuto fuori un grosso vizio, diciamo così, della zona, nel senso che c'è un commercio di organi per cui vengono rapiti i bambini. A volte le stesse famiglie della zona chiudono un occhio rispetto ai rapimenti, perché magari in alcuni casi vengono ricompensati. Spesso gli si dice che i bambini vengono adottati e poi invece una volta che spariscono non si sa che se vengono adottati. Anche perché, scusi, lei è un medico, me lo confermerà, nel caso di un trapianto da un bambino è un vuoto a perdere, non c'è possibilità di recupero. La bambina l'hanno ritrovata, Nicoletti, l'hanno ritrovata, non so neanche per quale abominevole costume, espiantata, cioè hanno fatto ritrovare la carcassa, certo. E non era la prima volta, per cui non c'era neanche... No, perché in quel caso non si limitano ai reni, dal momento che hanno un donatore totale, prendono certo, tutto. Esatto, quindi il rapimento di fatto diventa un modo per espiantare molti organi, conservarli. E c'era appunto quindi chi nella zona aveva una sorta di piccola clinica dove poteva fare queste cose e che era in contatto con persone di altre nazioni, ma non voglio dirlo perché sembra poi che così incolpiamo... Ecco, ma voi che andavate, penso, per dei piani di cooperazione, come volontari, esatto. Tutto, avete mai dato notizia a nessuno di quello che avete visto? Vi risulta che fosse qualcosa tollerato, conosciuto e tollerato, o non c'è spiegazione perché questa cosa avvenga? In zone così povere, così veramente ai confini della civiltà, è abbastanza, dove i bambini, una donna di 35 anni è normale che abbia avuto 8, 10, 12 gravidanze ed è normale che non si, che le famiglie nella loro ignoranza considerino usanza avere molti figli anche se poi questi figli muoiono di fame. Non vabbè, anche le nostre latitudini fino a 50 anni fa accadeva, esatto, questo nelle campagne. Neanche mandarli in ospedale, e se poi succede che c'è possibilità di farli adottare dietro compenso, il clima, la cultura macista della zona fa sì che la cosa viene concessa. Se per caso poi la gente del villaggio viene a sapere, viene a intuire e punta l'indice contro la famiglia, in genere il marito cosa fa? Ripudia la moglie, la accusa pubblicamente di essere stata lei a fare l'impiccio. E si salva la reputazione. La può anche uccidere, perché tutto sommato non avrà grosse ripercussioni penali, se non addirittura la fa la stessa che uccide questa malcapitata, risolvendo quindi il problema morale. Allora ci fermiamo un attimo, Paolo, per dare la linea all'informazione della borsa. Io penso che Franca Borciani abbia ascoltato con attenzione, avrà argomento per poi dettagliare con la sua esperienza, la sua ricerca, quello che abbiamo detto. Due testimonianze che in realtà già danno il quadro di quello che è. Da una parte una situazione incresciosa, personale e irrisolvibile, a cui viene suggerita una scappatoia facile. D'altra parte paesi in cui è talmente di reverso il livello di considerazione dell'esistenza umana, della vita umana. Si parla tanto di vita, di embrioni. Ecco, queste sono situazioni in cui sono vite fatte, formate e cresciute, articolate, che vengono usate come contenitori. Bambini da svuotare per vendere pezzi per chi? Per persone che possono permettersi di comprarli. Melog. La realtà condivisa. Alla fine del 2006 ero in Nepal per intervistare il capo dei maoisti, Prachanda, era il periodo della rivoluzione. Ero in Nepal e ho saputo che c'era questo boom del traffico di organi. Qui in Europa nessuno sapeva veramente dirmi se il traffico degli organi fosse una cosa vera o leggenda metropolitana. A un certo punto ho pensato come giornalista che la cosa migliore da fare fosse fingersi malato e andare a comprare un rene, andare a comprare un organo per vedere se era possibile, era facile, era falso. 800240024, oggi stiamo parlando di traffico d'organi, lo facciamo con la giornalista Franca Porciani del Corriere della Sera, che ha scritto un libro appunto Traffico d'organi, nuovi cannibali, vecchie miserie, con prefazione di Ettore Mo, editore Franco Angeli. Quello che abbiamo ascoltato è una tranche di un documentario, Hot Human Organ Traffic, del regista autore del documentario Roberto Razzi. Roberto Razzi, buongiorno. Buongiorno. Nel 2009 tu hai fatto questo viaggio attraverso appunto i luoghi che ha già descritto la collega, fingendoti un probabile acquirente di organi. Allora, per meglio specificare, diciamo che noi abbiamo ripercorso, diciamo, il cammino che aveva fatto precedentemente il giornalista Alessandro Giglioli dell'Espresso, il quale si era lui stesso appunto messo nei panni di un acquirente. E quindi noi, dopo esserci incontrati qui in Italia con lui a Roma, abbiamo deciso insieme al produttore Riccardo Neri per raccontare una parte di questa incredibile storia fosse interessante ripercorrere un po' le sue tappe. Per cui siamo partiti alla volta del Nepal, precisamente a Kathmandu, ed effettivamente, diciamo, quello che si definisce appunto leggenda metropolitana in realtà è una realtà. Ecco, cosa hai visto a Kathmandu in particolare? Chi erano diciamo, i clienti e chi era la materia prima che si offriva? Allora, per quello che riguarda, specifico subito, per quello che riguarda i clienti, è stata un po' una scelta, diciamo, autoriale, quella di non far entrare nella storia l'acquirente, anche perché difficilissimo secondo me. Però puoi raccontarlo adesso, visto che non devi riprendere. No, assolutamente. Diciamo, chiaramente l'acquirente è diciamo, l'Occidente ricco, comunque in generale, e poi c'è tutta la fascia America e soprattutto i grandi clienti provengono da Israele, che vengono facilitati da assicurazie sanitarie molto particolari che rimborsano fino all'80% di tutta delle spese di un eventuale trapianto. E invece i donatori, chiaramente parliamo di una fascia estremamente bassa, per quanto riguarda il Nepal parliamo del contadino che per assurdo poi è lui stesso a chiudere il proprio ciclo della sua vita, perché un contadino o chi lavora nelle fabbriche che fanno tappeti e lavora una media di 12-15 ore al giorno per guadagnare poi in realtà la sussistenza, quindi riso e lenticchie parliamo, ma una volta che poi entra in questo meccanismo in realtà taglia completamente le possibilità della propria esistenza. Per un po' più lavorare con un rene in meno. Assolutamente, la forza viene a mancare, ma viene a mancare la forza in quanto poi diciamo, la prassi sanitaria che uno dovrebbe seguire, medica, di un dopo intervento, chiaramente lì non è neanche proponibile. Proprio per cioè, si vedono girare poi questa persona, questa famosa cicatrice a forma di falce, questa che è inequivocabile il segno dell'espianto. Perdonami, puoi ripetermi la domanda? No, dico, si vedono girare queste persone con questa famosa cicatrice che è ormai nota, che è una forma di falce che attraversa l'addome, che è il segno dell'espianto. Sì, poi tra l'altro il meccanismo particolare, cioè la cosa che più mi ha colpito è che poi in realtà molti di quelli che decidono di fare questa pseudo donazione, in realtà poi entrano nel meccanismo e assumono il ruolo dei procacciatori di altri donatori. Diventano catene. L'unica maniera per massimalizzare l'investimento, una volta tolto il rene non possono togliersene un altro, è quello di diventare procacciatori e mediatori nei confronti di nuovi clienti. Fermiamoci un attimo, abbiamo Luciano, buongiorno Luciano. Luciano, adesso dobbiamo recuperarlo, era un medico che ci chiamava perché aveva qualcosa da dire su questa trasmissione, quindi lo stiamo rintracciando. Allora riprendiamoci con Franca Porciani. Franca, tu puoi immaginare che molte delle telefonate o degli sms che leggo sono persone che negano la possibilità che possa accadere questo, perché dicono in questi posti non vi immaginate nemmeno l'attrezzatura che serve per fare uno spianto, non sono attrezzati per farlo. Non è vero, appunto, non è vero. La cosa che mi ha colpito nel primo intervento che è stato sollevato la parola Istanbul, perché addirittura già nel 2001 un'inchiesta che fece scalpore di un giovane inviato del Corriere della Sera, che è Andrea Di Castro, documentò la presenza in questa clinica Vatan, che poi è stata chiusa, riaperta, perché c'è questo famoso chirurgo Yusuf Somes, detto l'avvoltoio nel mondo dei trapiantologi, che si era arricchito facendo trapianti di rene. Quindi già nel 2001 c'erano cliniche perfettamente organizzate, perché tra l'altro l'espianto e il trapianto di rene ormai da parecchi anni è un intervento abbastanza relativamente semplice, e la presenza di questi farmaci molto potenti, immunosoppressivi, fa sì che sia possibile anche se la compatibilità è minima. Diverso il discorso del cuore, che però ha un suo mercato in Cina, di cui io parlo, ma ora non c'è il tempo. Beh, in Cina hanno diciamo la grossa massa di umanità disponibile, che sono i condannati a morte. E quindi questa realtà, peraltro, che è stata anche sollevata da Amnesty International, devo dire non abbastanza da tutte le altre autorità. Sì, vengono giustiziati già sotto farmaco, diciamo, nel senso sì, li preparano prima, quello almeno mi sembra. Li preparano prima e poi anche loro sono serbatoi, però la cosa più, diciamo, che sta più a cuore è proprio il cuore, perché da noi, come sapete, ormai donazioni di cuore, cioè è davvero lì. Senti Franca, c'è un motivo per cui il prelievo da donatore vivo è preferibile rispetto al prelievo da cadavere? Sì, ecco, ci sono proprio dei dati abbastanza sinistri, ma insomma, diciamoli, che ci dimostrano che la sopravvivenza dell'organo da cadavere è meno della metà, ovviamente nell'organismo del ricevente, è meno della metà dell'organo preso fresco dal donatore. Cioè io prendo fresco il rene dal donatore, lo passo al ricevente, ho una sopravvivenza dell'organo che è più del doppio, quindi si arriva oltre i 10 anni. Fermiamoci solo un secondo, scusami Franca, abbiamo recuperato l'ascoltatore Luciano, buongiorno. Buongiorno. È un medico, direttore del centro terapia intensiva di un ospedale di Milano, immagino. Sì, esatto. Ma sento, secondo me si stanno dicendo ogni tanto qualche scempiaggine. Siamo qua per rettificare, visto che lei è un medico. No, nel senso che sembra che uno prelievi l'organo, ne metta in un barattolo e lo venda al miglior offerente. Non abbiamo detto questo, però mi consente. No, no, io non ho sentito. No, abbiamo detto esistono. È sicuramente che il problema del trapianto del rene, no? Ovviamente il rene è un organo, abbiamo 2 di reni, è possibile sopravvivere dopo. E che ci siano queste possibilità tecniche di trapianti indegni, assolutamente è possibile, no? Ma il trapianto, dobbiamo dire, quello di cuore ovviamente è tutta un'altra questione, quello di fegato è tutta un'altra questione, quello di organo è tutta un'altra questione, ma soprattutto quello per cui sono intervenuto quando ho sentito il collega che parlava delle chiacchiere che aveva sentito in Honduras, in cui venivano presi dei bambini, no? I cui organi sono gli organi di un bambino, non di un adulto, no? E quindi dipende, e vengono completamente spiantati. E sembra, e questa qua è una cosa che è tecnicamente non fattibile, soprattutto in quei posti. Quando lei mi parla di Istanbul o di gente che vende gli organi, a parte il fatto che mi sembra che in alcuni paesi questo sia ammesso, no? Abbiamo detto che addirittura il servizio sanitario israeliano rimborsa l'80% dell'intervento, quindi non. Presente che da noi abbiamo ovviamente delle donazioni volontarie, no? Un padre può avere un figlio, eccetera. Quindi questo tecnicamente è una cosa fattibile, ma stiamo attenti a dire che io sono intervenuto esclusivamente per la parte dei rapimenti, no? Questa è tecnicamente impossibile. E tengo presente che l'organo non si può pigliare e mettere in naftalina e aspettare un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni. Poi la grossa confusione che c'è tra prelievo da cadavere o prelievo non cadavere, dipende che cosa si intende, perché dipende un conto, quello che tecnicamente si dice un prelievo di organi a cuore battente, oppure in un paziente che è quello che diciamo morto, ossia col cuore fermo, eccetera, eccetera. Sono 2 situazioni completamente diverse, ossia il rischio di considerare gli organi come qualcosa di prelevabile, reimpiantabile tranquillamente, è sbagliato. Ma ammettiamo per assurdo che esista realmente, come dicono i colleghi giornalisti, un vasto mercato che non ha nessun tipo di problema di materia prima, ne può disporre, sia perché sono paesi in cui c'è un gran bisogno e quindi le persone donano i loro organi per bisogno, sia perché per una spregiudicatezza estrema, io racconto dei fatti, non entro nel giudizio, ci sia veramente la possibilità di prendere persone che, al di là della loro volontà, avendo le attrezzature necessarie, su richiesta espiantano, perché se per assurdo, diamo per assurdo, abbattiamo ogni nostro apparentemente remora di tipo etico, se per assurdo uno avesse un bambino con un forte bisogno di un organo indispensabile e qualcun altro di un'organizzazione criminosa dicesse: stai tranquillo, dammi le caratteristiche del tuo figlio, ti trovo il donatore, non c'è problema, te lo trovo, dimmi quando ti serve, come ti serve, cosa ti serve, te lo procuro. Ammetta che ci sia possibilità. Questo è possibile, però. Dunque, tutto è possibile, ma pensi cosa vuol dire questo? Perché non è che il trapianto lo faccia una persona, e poi dipende di che tipo di organo parliamo, no? Il rene è un trapianto relativamente piuttosto facile. Quindi sui reni non ci piove, questo è chiaro. Sui reni non ci piove, ma le cose che colpiscono l'attenzione sono il trapianto di cuore, il trapianto di fegato, no? Provi a immaginarsi che cosa vuol dire una roba di questo genere. No, ma sono perfettamente... Non solo l'organizzazione di avere il cuore, deve avere chi lo espianta, chi lo trapianta, chi lo conserva. Un trapianto di polmone. Luciano, le posso chiedere una cortesia? Può restare con noi ancora qualche minuto? Do le informazioni del traffico, poi vorrei far rispondere a Franca Porciani punto per punto quello che ha detto lei. Diamo per scontato, però, assodato, che il trapianto di rene, comunque, nelle modalità che stiamo dicendo, è assolutamente possibile. Ci interessa capire il passo successivo per trapianti tipo più delicato, come è organizzata questa sorta di catena internazionale che a domanda potrebbe, almeno quello che leggo nel libro della Porciani, rendere possibile anche questo tipo di intervento. Melog, la realtà condivisa. Stiamo seguendo un filo abbastanza difficile a seguirlo, perché naturalmente molte volte si avventura questo percorso in zone molto limacciose. Stiamo cercando di capire e di scandire ciò che è vero, certificabile, accertabile nel sicuramente verificabile grande mercato di organi umani, quello che invece è legato alla leggenda. Però abbiamo un ascoltatore, Gerardo, buongiorno. Buongiorno. Cosa da dire lei riguardo al problema di cui stiamo parlando questa mattina? Niente, il problema è che io per 5 anni l'ho vissuto realmente, in quanto per 20 anni sono stato arruolato in legione e il compito che avevamo noi in Guyana di 5 anni... Quindi era nella legione straniera francese? Legione straniera francese. Per 5 anni, oltre all'addestramento dei legionari... Che anni erano più o meno? Guarda, io sono stato arruolato dall'89 al 2009. Mi sono congelato 3 anni fa e era i primi 5 anni, perché i primi 5 anni obbligatoriamente bisogna attraversare l'oltremare. E in quei 5 anni noi facevamo anche il controllo all'interno della foresta amazzonica, con dentro le lance dei contrabbandieri che contrabbandavano armi, droga, ma soprattutto organi umani che prelevavano direttamente dal Brasile. Perché c'era la base francese Ariane? C'era la base nostra era in Guyana, la base Regina, dove partivano i razzi Ariane, principalmente c'è il centro missilistico europeo. Noi facevamo il servizio d'ordine. Però quindi la legione straniera faceva servizio d'ordine in Guyana per proteggere la zona dove partono, la zona di lancio dei missili. Perché è il territorio francese, la Guyana. Sì, sì, certo. E di conseguenza, ma dentro la foresta, siccome i contrabbandieri si passavano all'interno della foresta per non essere beccati, il compito nostro era anche quello di dargli la caccia. In quel caso, quando, siccome è una terra un po' di nessuno, non è che li potevi consegnare al Brasile o ad altre. Come facciate a capire che erano contrabbandieri di organi? Scusi. Perché trovavamo gli organi. Ma com'è possibile? Ma ci ha appena detto il medico che è ancora in ascolto, non è possibile trasportare un organo come se fosse un cestino da picnic. Sì, ma infatti loro avevano delle belle attrezzature. Mi spieghi un po' come erano attrezzati, questo mi interessa. Avevano dei frigo portatili abbastanza Certo, erano tutte cose per quanto riguardava all'epoca, comunque non erano cuori o cose del genere, però rini li abbiamo trovati spesso. Ma quelle volte loro prendevano anche organi che poi magari non venivano utilizzati, perché loro, da quello che ho capito, loro prendevano i soldi prima di trovare la preda, di togliere l'organo e così via. E quando li trovavate, cosa ne facevate? Chi li consegnavate? A nessuno, li passavamo al padrone di esecuzione. Cioè li fucilavate sul posto? Immediatamente. A lei è mai capitato a lei di stare in un plotone di esecuzione? Sì. Quindi lei ha fucilato dei contrabbandieri di organi? Sì, e devo dire che in quel caso eravamo molto molto contenti di farlo, anche perché poi capitò proprio a una figlia di un nostro legionario di venire rapita, insomma, un casino bello grosso. Perciò in quel caso noi gli passavamo direttamente le armi, in quanto non dovevamo rendere conto a nessuno. Bene, Gerardo Buagi. Ho tradotto bene. Buai, mi scusi, Buai, sì. Velocemente. Buongiorno, no, io sentivo adesso il medico lì di Milano che parlava. No, io so che in Albania, cioè, mi ha raccontato mio padre che negli anni 2001-2002 rapivano dei bambini, la malavita albanese, e li portavano in Grecia, dove veniva il rene praticamente. Ci saranno stati ospedali organizzati, in questo caso mi sembra più probabile questa notizia piuttosto che il contrabbandiere col frigo portatile nella foresta amazzonica. No, rapivano proprio il bambino, lo rapivano e lo portavano in Grecia, dove veniva il pianto. Franca Porciani, su queste due testimonianze, allora, e cosa rispondi al medico? Velocissimamente, allora, da dati incontrovertibili è dimostrato che in un normale frigo con ghiaccio il rene può sopravvivere in buone condizioni, l'organo prelevato, per 72 ore. Quindi il racconto del legionario è plausibile? È plausibile, io lo dico nel libro, cioè non ci sono prove certe, però mentre per il cuore, per il polmone, per l'amor di Dio, si deteriorano nel giro di pochissimo tempo, è vero che il rene 72 ore in un buon frigo portatile col ghiaccio, quindi primo fatto, sotto il profilo tecnico non è impossibile, no? Con la globalizzazione, gli aerei, i prendi, gli sposti, non è una cosa che potrebbe essere fattibile tecnicamente. Il discorso del trapianto di cuore, del trapianto di cuore, è purtroppo, mi dispiace di dover contraddire, e peraltro io ne porto testimonianza nel libro, il medico milanese, perché proprio Nancy Shepherd-Hughes mandò tutta una serie di personaggi in Cina, fecero un lavoro molto complesso, che poi lei ha pubblicato su Lancet, quindi la rivista medica forse una delle più importanti del mondo. Infatti è quello che avevo letto, che ecco, ho detto nel 2003, addirittura accanto ai condannati a morte. Sì, scusami, devo fermarti che la sigla, se no ci interrompe. Io dico questo argomento, siccome mi sembra così interessante, lo riprenderemo. Quindi gli ospiti che sono ancora in attesa e devono esprimere il loro parere avranno un'altra possibilità, perché ci torneremo senz'altro.